9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 15 di giugno, oggi è il Sacro Cuore di Gesù, quindi non saprei bene chi deve naturalmente festeggiare, fate un po' voi a tutti coloro che hanno nomi cardiaci, come devo dire, o che fanno battere il cuore, gli auguri. E la puntata di oggi è dedicata a questa specie di maionese impazzita che sembra alla vigilia del voto greco l'euroconcerto, l'europolitica. Basta dare un'occhiata anche a come i giornali italiani titolano per vedere una grandissima incertezza sui criteri di lettura riservati alle eurovicende, perché mi ha colpito molto che per esempio il giornale diretto da Sallusti e con un fondo di feltro in prima pagina, come vi ho anticipato lanciando la trasmissione di oggi, titoli con tanta voglia di lira, dicendo che 7 lettori su 10 del giornale sognano il vecchio conio, e hanno chiesto a Francesco Forte, che è un persona lucida, malgrado l'età e siamo molto amici, di disegnare un piano che poi sarebbe un piano di riserva nel caso in cui, uscita la Grecia, al mercato dovesse capire che è come le ciliegie, una tira l'altra. E Francesco Forte spiega sul giornale come qualmente per l'Italia sarebbe necessario immaginare un ancoraggio a una valuta nazionale che però rimanesse solidamente ancorata con un rapporto di cambio fisso con l'euro, con una fascia di oscillazione molto stretta, in modo da contenerne la svalutazione, 5-6%, dice Francesco Forte. In questo Francesco Forte, come un economista, sa quello che tutti i nostalgici della vecchia lira tendono a non dirvi: il passaggio a una valuta nazionale libera di fluttuare nei confronti dell'euro e delle altre valute euroforti comporterebbe una svalutazione nell'ambito del 30-40%, e che significherebbe che il vostro patrimonio e le vostre attività, il vostro risparmio in Italia, denominate in questa nuova valuta, varrebbero tanto di meno nella proporzione reale con le altre, cioè ci sarebbe un abbattimento di valore di quelle proporzioni. Quindi chi si immagina che basta svalutare e si riparte si è dimenticato di questo piccolo passaggio intermedio, e si dimentica poi del fatto che l'inflazione è un costitutivamente un grande piacere al più grande debitore. Il più grande debitore è lo Stato, quindi è ovvio che è un grande piacere allo Stato, non a voi che state ascoltando, siate lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, imprenditori, autonomi. Quindi questa nostalgia della lira, come sempre, non fa i conti con la realtà. Altri quotidiani come Corriere della Sera titolano invece sul vertice di ieri Monti Hollande, Italia sulla strada giusta, e c'è questa intervista a Jens Widmann di Bundesbank che riconosce che l'Italia ha fatto progressi sui conti pubblici. Non si squilibra molto, per così dire, sui temi che di qui all'Euroconsiglio di fine mese saranno al centro dei confronti quotidiani riservati di chi ha in mano il bandolo della matassa. C'è una specie di gruppo informale a quattro a cui è stato affidato il compito, al di là dei contatti bilaterali tra gli euroleader, di tentare di sbrogliare la matassa. Questi quattro sono ovviamente il Presidente della Commissione Europea Barroso, il Presidente del Consiglio Europeo Van Rompuy, il Presidente dell'Eurogruppo Juncker e ovviamente Mario Draghi, il presidente della BCE. Ci sono due grandi filoni: da una parte quello della cosiddetta unione bancaria, e qui dovrebbero esserci passi più condivisi, anche se un membro del board della Bundesbank ha gettato acqua ghiacciata due giorni fa anche sull'unione bancaria. Unione bancaria, in due parole, è identificazione di un numero vasto, fino a un centinaio, 90, 70, a seconda delle fonti, di grandi e le maggiori istituzioni bancarie europee da sottomettere a un comune regime di vigilanza e a un'analoga procedura di eventuale salvataggio, con una eurogaranzia sui depositi che si somma a quella dei fondi di garanzia nazionale, l'avvio di fondi nazionali di ristrutturazione di sistemi bancari che sono ancora pieni di troppi problemi. Bisognava pensarci dopo Lehman Brothers, l'Europa ha preferito fare su vie nazionali, ha sbagliato, e questo è un primo filone, quello dell'unione bancaria. Dall'altra parte c'è quello ovviamente dei passi avanti sull'unione politica. La Merkel ieri è intervenuta al Parlamento tedesco e ha detto che la forza tedesca non è infinita, che è come dire non pensate che possiamo salvarvi noi da soli da una parte. Ricordatevi che nella recezione del trattato vi avevamo avvisato, c'è una condizione posta dalla Corte Costituzionale tedesca, confermata dalla Corte Costituzionale tedesca, che dice che noi non possiamo assumere debiti altrui che non siano votati dal nostro Parlamento, di cui quindi si risponde ai nostri elettori. E il tema degli eurobond è una delle tante versioni degli eurobond, perché ce ne sono diverse che sul tavolo degli euroleader, e al centro del confronto vero su questa cosa, su questa partita politica. Che dire, dopo il voto greco, in cui nei sondaggi di ieri riprendeva voce e peso chi non vuole buttare per aria la trattativa, c'è l'incognita di Syriza, come sempre, il cui leader Tsipras nella campagna elettorale ha detto che un governo che avesse bisogno dei voti di Syriza è un governo che dovrebbe dire stop, rinegoziamo tutto il programma di rigore. E qui bisogna vedere se rinegoziare significa metterla alle condizioni più lasche consentite per gli spagnoli ed estenderle anche a Greci, in quel caso anche ai portoghesi e all'Irlanda, oppure dire alla Grecia fuori. Grecia fuori significa una catena di cose, come abbiamo detto sui mercati prima. Il due giorni dopo il voto greco, G20 in Messico, e quindi Cina, India America premeranno con tutta l'energia di cui sono a disposizione sull'Europa, perché non regali al mondo un'altra crisi. Ieri qualcuno anche sul Sole leggeva nella posizione americana una specie di timore per l'Europa troppo forte. Io sbaglierò, ma i miei amici americani mi sembra che siano imbufaliti per l'esatto opposto, perché Obama può perdere le elezioni e l'America ulteriormente rallentare se l'Europa non riprende il bandolo della matassa. E poi di incontro riservato in incontro pubblico si andrà a questo Consiglio europeo. Facciamo oggi un giro di opinioni tra osservatori che stanno fuori dall'Italia per dirci come dal loro punto di vista ci si sta attrezzando a questi giorni in cui si può ballare purtroppo con una durezza ancora maggiore. Avete visto che ieri la Spagna è andata oltre il rendimento del 7% sui decennali, e gli stessi componenti del governo Rajoy hanno dovuto dichiarare non sappiamo quanto duriamo a questi tassi di interesse. Allora, gli ospiti della prima parte della trasmissione sono Eric Joseph, che è corrispondente in Italia di Liberazione. Buongiorno e grazie Eric. E Beda Romano, che è corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buongiorno e grazie a Beda Romano. Buongiorno. Allora Beda, comincerei obiettivamente con lei, con te barra lei, perché la questione è: contano, ti faccio una serie di domande secche, contano davvero e quanto questi quattro del comitato informale? Hanno una delega vera per istruire la parte diciamo delle decisioni da mettere sul tavolo, premasticandole prima per il prossimo Consiglio europeo, o contano solo i leader nei faccia a faccia e negli incontri a due, a tre, a quattro? La risposta è: contano tutte e due. Inevitabilmente il sistema europeo lavora sui due filoni. Devo dire che i quattro sono chiamati in realtà a tirare le fila di quello che sta avvenendo a livello politico bilaterale. Al tempo stesso devono fare delle proposte, ed è quello che sta avvenendo in questi giorni. È quello che è avvenuto fondamentalmente quando un paio di settimane fa il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha proposto l'unione bancaria. Lo ha fatto, ne ha tratteggiato i contorni, ne ha spiegato i vari pilastri e ha lasciato a questo punto al mondo politico il compito di digerire l'aspetto, questa cosa. E lo stanno facendo inevitabilmente. Abbiamo notato negli ultimi giorni che vi è un avvicinamento tra le posizioni tedesche e le posizioni francesi sull'ipotesi di una unione bancaria. Lo stesso per certi versi sta facendo il Presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, quando tratteggia a modo suo l'unione più politica, più di bilancio, parlando di obbligazioni europee. Quindi il rapporto fra queste due entità, l'entità tecnica rappresentata dai quattro e l'entità politica rappresentata dai governi stanno viaggiando in parallelo e stanno cercando di influenzarsi a vicenda. Uno dei refrain italiani è quello di dire colpa della Merkel, ed è un refrain però comune in tutti gli eurodeboli, a dire la verità, è una tendenza, un riflesso condizionato, per così dire. Osservando invece da Bruxelles l'evoluzione delle sottigliezze espressive del capo del governo tedesco, se dovessi indicare a chi ascolta, e non è proprio un euro addetto, ci sono stati passi in avanti veri secondo te, e relativi a quali pezzi di questa trattativa? Ma io non faccio parte di coloro che pensano tutto sia colpa della signora Merkel. Credo che la Germania inevitabilmente ha difficoltà evidentemente a affrontare questa crisi mettendosi nei panni dell'Italia, della Spagna, della Grecia, ed è inevitabile vista la totale e differente posizione. Credo che la Germania però abbia tratteggiato un percorso da percorrere. La Germania è convinta che ci voglia più integrazione europea e quindi ha detto che per avere più integrazione ci vuole una cessione di sovranità dalla periferia al centro. I vari paesi devono accettare di trasferire sovranità a un'istituzione sovranazionale, sia per quanto riguarda la sorveglianza bancaria, sia per quanto riguarda la sorveglianza dei bilanci. Credo che sia un percorso corretto, fosse solo perché è l'unico percorso che dà garanzia al paese più ricco e più solido, che è la Germania. Noto che dall'altra parte i vari paesi sono estremamente ambigui e poco chiari su questo aspetto. In particolare la Francia non ha ancora parlato esplicitamente dell'idea di trasferire sovranità dalla periferia al centro. E inevitabilmente la posizione francese contribuisce alla cautela tedesca. Siamo in questa fase in cui la Germania ha messo sul tavolo alcune proposte e piano piano la Francia sta cercando di avvicinarsi. Sentiamo subito cosa dice Eric Joseph di questa osservazione di Beda Romano. La Francia, quanto a devoluzione ulteriore di sovranità, sarebbe fredda? La Francia di Hollande sarebbe più fredda o meno fredda poi di quella dell'ex presidente Sarkozy? Ma questo è un nodo francese che va al di là della personalità di Sarkozy o di Hollande. Il problema è appunto la questione quanto dose di sovranità la Francia è pronta ad abbandonare, e per questo dovrebbe passare attraverso un salto politico, quello che appunto la cancelliera Merkel ribadisce da vari giorni. Peccato che non l'abbia fatto già da diversi mesi, perché questa proposta così chiara di salto politico avrebbe potuto farlo all'inizio della crisi, e quando anche la crisi era contenuta alla Grecia. Però senz'altro è probabilmente il cammino ineluttabile, e da questo punto di vista la Francia è molto reticente ancora a avanzare su questo terreno. Ieri nel corso della conferenza stampa François Hollande ha rivelato di aver mandato un testo in cui appunto proponeva una forma di percorso con una crescita, un intervento per evitare il contagio e lottare contro la speculazione. Il terzo punto era un piano per creare stabilmente appunto dei strumenti per creare appunto una struttura per proteggere appunto l'Europa monetaria economica. Però non parla ancora, non spiega bene finché dove è pronto nell'abbandono di sovranità e dell'abbandono di sovranità politica. Per il momento i suoi consiglieri nella delegazione francese si dice vabbè, è una riforma istituzionale, in qualche maniera è ancora una questione teologica, che bisogna occuparsi dell'emergenza, della crisi, e poi eventualmente un cantiere istituzionale, un cantiere politico deve essere visto a lungo termine. E questo è probabilmente il cammino al rovescio rispetto a quello che propone oggi Angela Merkel, e di cui lì è un nodo essenziale. E poi non si sa veramente se la proposta di Angela Merkel è una vera proposta proposta, o se è ancora una proposta in qualche maniera tattica, in modo di dire di allontanare appunto le soluzioni. Questo c'è ancora un dubbio da parte francese, se si ha avuto la sensazione che la Merkel mette la questione politica sul tappeto per evitare di dover rispondere su alcuni temi, però rimane di fatto che il problema in nodo è strettamente politico. Perché qui quando i tedeschi, il cancelliere dice ci vuole più unione politica, ha l'idea che il coordinamento delle linee fondamentali dei bilanci di ogni paese nazionale debba passare per un controllo ex ante e una vigilanza ex post molto più accentrato. Cioè l'idea è quella di iniziare a mettere mano a un'ipotesi, un abbozzo di un ministro delle finanze, non tanto con poteri proponenti, ma con poteri vigilanti, comuni, ecco, rafforzare molto una struttura. Questo significa, certo, cedere sovranità. Allora, questa lettura che vi propongono Beda Romano da una parte è confermata da Eric Zeff, vi dice che chi, ripete, attenti al problema tedesco, il tedesco, la colpa della Merkel sono loro che non capiscono, non vi racconta le cose come stanno. Qui il problema è che se vogliamo che l'euro funzioni, bisogna unire i mercati dei beni, dei servizi e del lavoro in prospettiva e dare una coerenza alle politiche monetarie di bilancio. Altrimenti, chi vi dice che basta federalizzare il debito pubblico è semplicemente il furbo che ha, siccome fatto azzardo morale, come noi italiani abbiamo fatto azzardo morale con l'euro, in maniera diversa dai greci, dagli spagnoli, ma la mia linea è che abbiamo fatto, e come azzardo morale, 7 punti di minore interesse del debito pubblico ogni anno ci ha regalato l'euro. Cosa ne abbiamo fatto? Abbiamo forse tenuto la spesa in termini reali e diminuito la pressione fiscale per fare più crescita, più incentivi alle imprese, al lavoro, eccetera. Neanche per idea, abbiamo fatto più spesa corrente. Allora la mia opinione, io sono d'accordo in questo con Beda Romano e Eric Joseph, è di vedere le cose un pochino più concretamente, perché una moneta comune funzioni, ci vuole l'unione dei mercati veri, quelle che i politici non vogliono perché vogliono continuare a regolamentare a livello nazionale i mercati delle professioni, del lavoro, delle specifiche tecniche, dell'energia, capite? Allora, invece bisognerebbe dire, per far funzionare secondo i principi dei vasi comunicanti un mercato con una moneta unica, bisogna fare passi avanti in quella direzione e nel coordinamento vero delle politiche di bilancio. La Germania in queste ultime fasi sta soprattutto insistendo su questa seconda cosa. I giornali italiani la spiegano molto male, perché i giornali italiani hanno in testa una sola cosa: federalizzare una quota del debito pubblico, altrimenti la signora Merkel, schnell, allineati. Io non la penso per niente così, a dirvi la verità, e credo che il confronto europeo sia molto più simile a quello che ci hanno appena raccontato Beda Romano ed Eric Joseph. La domanda che faccio a Beda Romano è: quanto conta, sentendo da Bruxelles e seguendo da Bruxelles la vicenda, la pressione americana e cinese sull'Europa, che è diventata, a me sembra, molto forte? Non si è mai visto un numero di telefonate riservate e anche dette in pubblico da parte del presidente americano di Tim Geithner come quello che, a cui si assiste in crescendo in queste ultime settimane. Al G20 la posizione espressa dal resto del mondo peserà, e a favore di chi nel bilancio del confronto europeo, prima di prendere le decisioni una volta visto il voto greco di domenica, secondo te? Pesa senz'altro, ed è un paradosso, perché noi potevamo immaginare che sia gli Stati Uniti che la Gran Bretagna fossero a favore di un'unione monetaria debole. Questa era un po' la tesi che dominava all'inizio del decennio scorso. In realtà la crisi debitoria europea ha preso dimensioni tali per cui sia la Gran Bretagna che gli Stati Uniti hanno dovuto rivedere drasticamente le loro priorità, e sono talmente consapevoli della gravità della crisi e della gravità delle conseguenze di uno smembramento della zona euro che stanno facendo pressione sugli europei perché i governi prendano decisioni strutturali importanti, strutturali. Quindi paradossalmente proprio gli Stati Uniti, proprio la Gran Bretagna sono a favore di maggiore integrazione e credo siano a favore di un trasferimento di sovranità dalla periferia al centro, come pensa la Germania. Allora io ringrazio Beda Romano, che come sentite deve partire. Chiedo a Eric Joseph: in Francia l'opinione pubblica nei sondaggi e nei temi di questa campagna elettorale, non mi sembra, perché si sia parlato non tanto dell'eurotimore, non mi sembra che sia stato uno dei temi dominanti della campagna campagna elettorale per le presidenziali e tantomeno per le legislative. Ma quanta paura hanno i francesi? Quanto temono davvero che uscita dalla Grecia ci sia un crack e con conseguenze dirette anche per l'economia francese? In qualche maniera c'è la sensazione che non si percepisce veramente il rischio di un'uscita della Grecia. È vero, sì, sì. Infatti anche io la penso così. E questo è un elemento abbastanza impressionante, cioè si ha la sensazione che tutto sommato l'uscita della Grecia sì, senz'altro sarebbe problematico, ma potrebbe in qualche maniera gestire, anche perché si è lasciato pensare che c'era una forma di piano B, cioè di piano di accompagnamento dell'uscita della Grecia. Il problema di fondo è che in effetti noi usciamo di due campagne elettorali, campagna presidenziale e campagna legislative, che appunto il secondo turno legislativo avrà luogo domenica. Si è parlato di tutto e pochissimo di Europa, si è parlato piuttosto del tweet di Valérie Trier-Veller, la moglie cioè la compagna di François Hollande, piuttosto che i problemi dell'Europa e della zona euro. A tal punto che sui 10 candidati alla presidenziale nessuno ha messo in avanti veramente la questione del trasferimento di sovranità, e dunque in qualche maniera l'Europa era molto presente nella campagna, però senza che se ne parlasse. Cioè si sentiva appunto la crisi, si sentiva la necessità in qualche maniera di affrontare con la costruzione europea, però in nessun modo proprio si affronta direttamente, e dunque questa è una forma di negazione, di niego della realtà. È quasi come se non si volesse appunto affrontare il nodo centrale e la questione del trasferimento di sovranità, e ancora oggi, perché c'è anche il ricordo del trattato costituzionale del 2005 in cui il 55% dei francesi aveva votato contro, e dunque anche gli europeisti, anche i più lucidi, come ad esempio lo è François Hollande è stato consigliere di Jacques Delors nel passato, e dunque è un europeista convinto e sa benissimo come sta la situazione. Fabius però il nuovo ministro degli esteri non troppo, è più euroscettico mitterrandiano. Fabius era più eurocetico, ma in una maniera anche molto strumentale di politica interna, però senz'altro ovviamente è difficile per Fabius oggi dire c'è bisogno di riaprire il cantiere istituzionale avendo rigettato il trattato del 2005. E questo è il problema, è che ci sono molti eurofobi o euroscettici in Francia, e quelli che sono convinti che comunque l'Europa è la salvezza non hanno il coraggio politico di porre il problema. Di porre il problema vero, diciamo così, del superamento dell'impostazione gollista, sovranista. E questo è un po' il punto di fondo che in Italia è totalmente alieno nel dibattito italiano. Noi consideriamo che, per così dire, la nuova posizione di Hollande è sulla posizione italiana a favore degli eurodeboli. Dimentichiamo che le specificità del dibattito francese sull'Europa sono quelle che secondo me stamattina vi abbiamo ricordato. Quindi attenzione in Italia ai provvedimenti di oggi. Consiglio dei Ministri, c'è un pacchetto che è quello su cui aveva lavorato, essendo poi bloccato dalla Ragioneria Generale dello Stato, il ministro Corrado Passera, ve lo ricordo, riguarda i project bond, l'aumento delle detrazioni, dell'incentivo alle ristrutturazioni nell'edilizia dal 36 al 50%, la discesa dal 55 al 50%, quello per il risparmio energetico, riordino degli incentivi alle imprese con la cancellazione di 43 norme. Sono le cose di cui abbiamo parlato ieri con Alessandro Barbera e Corrado Passera, diciamo, rialloca risorse per più o meno 600 milioni, recuperandole dai tanti trasferimenti alle imprese in cui mette mano. Ma questo non è ancora il grande intervento sul totale dei trasferimenti pubblici che aspettiamo da Francesco Giavazzi. Ma ieri abbiamo fatto finalmente chiarezza: quei 33 sono 33 miliardi, 2 punti di PIL, che dal bilancio pubblico vanno alle imprese, vanno praticamente per 32 miliardi erotti solo ai gruppi pubblici. Solo ai gruppi pubblici, per essere chiari, che fa giustizia di tutto quello che per anni è stato detto: ah, care imprese private, i trasferimenti delle imprese private sono scese tantissimo e oggi sono pochissima roba, fatte attraverso la confusa somma di leggi regionali di trasferimento alle imprese. Vedremo come sarà il testo sul bonus ricerca, perché sapete che su questo le imprese hanno protestato molto, perché nella stesura del provvedimento veniva meno il bonus con incentivi automatici alla ricerca e veniva sostituito invece da un bonus per l'assunzione del personale qualificato di cui le imprese non hanno bisogno, vogliono più risorse nel caso per incentivare l'innovazione tecnologica. Sono molti altri i capitoli, ma nel Consiglio dei Ministri di oggi si inizia a parlare anche di dismissioni patrimoniali e questa è una cosa fondamentale, a patto di farla molto bene però, perché su questo mi sentite dire da molto tempo, cari sudditi in ascolto, non cittadini, sudditi in ascolto, leggete l'ebook, compratelo su amazon.it, ebookizzati, ebooks Italia, cari sudditi, noi diventeremo un po' più cittadini, un po' meno sudditi, quando riusciremo a far capire al governo attuale, ma anche ai predecessori, l'errore fondamentale di 20 anni di politica economica in cui hanno detto che il debito pubblico che saliva andava affrontato con più tasse nel conto economico, da parte nostra che siamo sempre gli stessi a pagarne, sempre di più, sempre più record. Questa visione del rigore è una palla, capite? È una bufala, è la maniera per farvi sentire oltretutto in colpa perché non le pagate abbastanza quando ne pagate più di tutti gli altri. E allora, per essere un po' meno sudditi, un po' più cittadini, bisogna che questa partita, che finalmente il governo Monti, tardi, dopo 6 mesi, non so quanto bene, ma finalmente capisce che deve diventare il riorientamento della sua politica, al posto di quella che ha perseguito sin dall'inizio, cioè dire l'avanzo primario di 6 punti di PIL per tanti anni, pagate più tasse, pagate più tasse. Questa canzone, che non ha funzionato, che deprime il PIL e che fa diminuire il gettito, adesso ha provocato nel governo un'apertura degli occhi di consapevolezza. Allora, oggi attenti, ne parleremo la prossima settimana, a seconda di come si instrada le dismissioni dell'attivo patrimoniale e la messa a reddito dell'attivo patrimoniale, di cui abbiamo parlato tante volte, si potrà subito capire se davvero siamo in presenza di un cambio di segno radicale della politica economica, come sarebbe auspicabile per evitare all'Italia, euro non euro, di finire contro il muro, oppure se ci prendono per i fondelli, come alcuni giornali oggi giustamente ricordano da 20 anni a questa parte tante volte è successo. Però bisogna anche ricordare che in 20 anni, dopo la Thatcher, l'Italia è stato il paese che ha privatizzato di più. Noi abbiamo privatizzato, tra le privatizzazioni delle società, le cartolarizzazioni di crediti e la cessione di immobili, per quasi 100 miliardi di euro, cioè per quasi 200 mila vecchie miliardi di lire, il più, cioè 140 mila miliardi di lire, li abbiamo fatti dalle dismissioni delle società, delle privatizzazioni dell'IRI, Telecom e così via. Poi abbiamo fatto 2 punti di PIL da cessioni immobiliari, sbagliando il modello, con SCIP 1, SCIP 2 e SCIP 3, e le cessioni di cartolarizzazione di credito, sbagliando il modello, ma abbiamo imparato per questo. Allora, ci sono molte proposte tecniche sui tavoli, una di queste è di utilizzare CDP, questa è la proposta che ha elaborato Mediobanca, ne trovate traccia sui giornali. Pare che il governo non si sia invece deciso a seguire l'idea del fondo patrimoniale, quello elaborato dal ex ragioniere dello Stato Monorchio, dal professor Salerno, che aveva il vantaggio di essere, diciamo, di essere un progetto molto spendibile politicamente. Se il governo segue la via Mediobanca CDP, è comunque una via interessante, secondo me. Io ero per un'idea ancora altra, ma vediamo prima di parlare, perché parlare sono buoni tutti, io non voglio fare bar sport, vediamo che cosa davvero si capisce dal Consiglio dei Ministri di oggi, se davvero imboccano con decisione questa strada, ne parliamo a quel punto la settimana prossima. Intanto, in attesa del nostro ospite, perché noi siamo in attesa del punto di vista americano, cioè di Edward Luttwak, che è in Israele ma in questo momento non ci risponde a telefono, perché Ted ci ha mandato ieri 2 righe di brief che ci hanno molto incuriosito, dicendo: ah, in America veramente l'idea è per la prima volta che anche l'euro e anche l'Italia potrebbe uscire dall'euro, e quindi lo ha acchiappato al volo, vediamo se ci risponde a telefono. Intanto vediamo come la pensate alcuni di voi sudditi in ascolto. Cominciamo con Bruno da Bergamo. Prego, Bruno. Buongiorno, Salve. Due o tre cose molto rapide. La prima è una domanda. Volevo sapere informazioni più specifiche su il taglio del patrimonio in caso di uscita dell'euro per gli italiani. Cioè, informazioni di questo tipo dove possono essere reperite? La prima cosa. Sì. La seconda, io apprezzo molto, soprattutto negli ultimi mesi, il taglio che ha assunto la trasmissione, perché state dando molti, molti più numeri. La richiesta sarebbe quella, se possibile, di, non so, riassumerli e metterli a disposizione sul sito o sul tuo blog. Questa blog. Fai benissimo, certo. Ecco, la terza e ultima, sinceramente, è per te un duplice appello, cioè: uno, non mollare, per favore, ti scongiuro. Non dipende da me. La seconda, in caso di, come io mi auguro, la tua trasmissione continuerà, provare a chiedere magari una 20, una mezz'oretta in più. Non dipende da me, quindi io posso risponderti solo questo. Per la quantificazione, per così dire, credo di poterlo annunciare lunedì, quindi subito dopo il voto greco, noi abbiamo preparato, dopo l'instant book sudditi che c'è sia in formato ebook sia in formato librario, come Bruno Leoni e con la mia prefazione, abbiamo preparato un instant book che è relativo a cosa avviene se c'è l'euro break, per così dire, e ve lo annuncerò lunedì di preciso, perché lo abbiamo già caricato su amazon.it, ma prima di lunedì credo che non sia non ve lo possiate scaricare, e lì troverai anche un capitolo scritto da due nostri amici studiosi americani relativo a precedenti conversioni in anni recenti da valute comuni a valute nazionali, ed è di lì che si ricava un pochino la numerica della media di abbattimento di svalutazione con il ritorno alla valuta nazionale rispetto a quello precedente. In altre parole, in caso di ritorno a una lira, bisognerebbe vedere se quella lira è, come oggi propone Francesco Forte, collegata a un rapporto di cambio fisso con l'euro oppure no, o fosse libera di svalutare. Ovviamente per incamerare il massimo vantaggio per la ripartenza dovrebbe essere libera di svalutare. A oggi sappiamo che noi abbiamo più o meno 30 punti di competitività meno della Germania, però io credo che la svalutazione iniziale sarebbe inferiore a 30 punti, perché abbiamo comunque in posizione netta finanziaria sull'estero, bilancio dei pagamenti e commerciali, e l'equazione è un po' complessa per calcolarlo. Diciamo che la svalutazione potrebbe essere tra il 25 e il 30%. Questo significa che tutto ciò che verrebbe ridominato, ridenominato, se tornassimo alla lira per qualche giorno, bisognerebbe fermare le banche, bisognerebbe adottare lo stop alla libertà dei capitali in uscita, non funzionerebbero per un giorno o due, almeno nella migliore delle ipotesi, ovviamente i bancomat, saremmo tutti bloccati, e a quel punto si ridenominano sia le attività che le passività, quindi i debiti compresi, nella nuova valuta. Quelli che restano sull'estero, attenti, che però non si ridenominano, quindi chi ha passività sull'estero si trova poi con i debiti moltiplicati con catene di fallimento. Questo è quello che purtroppo avverrebbe, secondo me, in un ambito di 25-30%, a cui si sommerebbe a quel punto l'inflazione galoppante, che, ripeto, è un'illusione monetaria perché fa solo un favore a chi è molto indebitato, cioè allo Stato. Quindi chi è nostalgico della lira sappia che, un po' come avvenne in Argentina, si passa attraverso una botta di verticale di diminuzione del valore reale comparato su scala internazionale di quello che uno ha in cassa e di quello che uno ha in termini di patrimonio, anche capitale fisico, perché ovviamente va tutto ridenominato in una moneta che vale molto molto meno. Può valerne la pena? Io non dico di no, io non si esclude mai niente nella storia, solo a patto di un paese che a quel punto sia capace di fare tutto quello che non ha fatto negli anni dell'euro, perché se noi fossimo capaci di cambiare politica economica, andassimo ventre a terra con un po' di svalutazione, in effetti guadagneremmo molto. Ma guardiamoci negli occhi, la politica italiana ci autorizza a credere questo dopo che ci hanno preso per i fondelli, o meglio per il culo, anche con 7 punti di PIL ogni anno garantitici di minori interessi sull'euro, e se lo sono magnato, e continuiamo ancora a leggere che in Sicilia assumono 20.000 precari a tempo indeterminato. Io ve lo chiedo, ma voi vi fidereste della politica italiana se si svaluta, oppure torneremo alla vecchia politica che con la faccenda della svalutazione ci prendeva per il culo, cioè guardate come siamo bravi, e di rigore vero non ne faceva mai? Questa è la mia vera domanda. Proviamo a sentire la qualità del collegamento con Ted Lutfak da Israele. Tre domande secche. Primo, è vero che Obama è furibondo perché può perdere le elezioni per colpa degli europei? Secondo, è vero che si stima che l'euro possa andare a pezzi e anche l'Italia uscirne? Terzo, che cosa pensano gli americani di Monti, visto che i giornali italiani dicono che praticamente in America sarebbero pronti a eleggere il presidente dell'Unione Americana lui? Tu che pensi? Beh, la prima cosa, la prima domanda su Obama è che Obama è furioso non solo all'Italia, ma tutti questi che stanno in Europa annegando in una vasca di bagno. C'era Cucchiani di Banca Intesa che ha scritto su Wall Street Journal un articolo che è apparso ieri, credo, in cui spiegava in dettaglio, dal punto di vista di un italiano, capo di una grande banca, di quanto le misure politiche sono a disposizione che non sono attuate. Quindi Obama si sta perdendo le elezioni, e le sta perdendo per il fatto che i suoi colleghi europei non stanno facendo cose che gli economisti hanno stabilito molto tempo fa e che sono listati nell'articolo di Cucchiani altamente fattibili. E quindi, e su Monti anche come la pensano? Beh, su Monti credo c'è una grande delusione, perché Mario Monti è una persona molto conosciuta. C'era un programma Mario Monti che è stato presentato per molti anni alla conferenza di Ambrosetti ogni anno. Questo programma partiva dal premessa che l'economia italiana è ingessata da regole, tariffe e restrizioni che non ci sono altrove. Cioè, tu sei un laureato farmacista eppure non puoi vendere farmaci se non sei membro di una casta. I notai fanno un servizio sempre meno importante, ma comunque non hanno diritto di fare la reclame per offrirsi a vicenda a prezzi più bassi come in ogni professione di ogni mondo. I negozi non hanno diritto di aprire e chiudere quando vogliono, non hanno diritto di vendere quello che vogliono. E tutte queste stupide, inutili, medioevali restrizioni che ingessano le economie italiane, con un Presidente della Repubblica come Napolitano, che capisce queste cose, le capisce a fondo, pronto a firmare i decreti, per quale ragione il governo Monti non fa questi decreti che ci sono urgentemente bisogno? Sono decreti che darebbero aprirebbero molte porte per molti italiani di fare molte cose domani mattina. Questo sarebbe una cosa molto più importante di come sembra, per il fatto che staccherebbe il destino dell'Italia da questi paesi disastrati, senza speranze economicamente, come la Grecia, la Spagna e così via. È assurdo che gli italiani, dove il destino dell'Italia è legato al destino di queste economie che non producono quasi niente. Queste per me sono parole queste parole di Lutwak sono parole di aurea verità. Cioè, il secondo paese per intensità manifatturiera e per export manifatturiero dell'Unione Europea è l'Italia. La sua grande forza è questa, di fare con 22 punti di produzione industriale meno del 2007 più valore nel suo export, perché è cresciuto nel valore aggiunto. Le 200.000 imprese, 190.000 in filiera, le 5.000 multinazionali tascabili del quarto capitalismo di Mediobanca, le 15.000 che controllano almeno due branches in due paesi diversi dall'Italia. Questa roba qua è la spina dorsale di questo paese, che non c'è, certamente non c'è in Grecia, ma non c'è neanche in Spagna, non c'è in Portogallo, non c'è in Irlanda. Se gli italiani non capiscono che il cambio di marcia è possibile con politiche economiche completamente diverse da quelle che si sono viste, quindi il problema è politico, è di casa nostra, e questo ci metterebbe in una posizione di forza in tutta Europa e sui mercati mondiali ancora più forte di quella che siamo riusciti a difendere malgrado questa crisi, secondo me le parole di Ted Lutwak sono di aurea verità. E a me dispiace, ma condivido anche il fatto che in America ci sia una forte delusione per quello che in questi sei mesi poteva venire da questo governo, per cui ci siamo spesi in tanti per dargli legittimità e cacciare chi aveva perso la credibilità, cioè Berlusconi e Tremonti, e invece in cambio abbiamo avuto solo ancora una volta più tasse. Questa è l'amara verità, e liberalizzazioni di facciate sulla carta. Questo è io penso che le parole di Lutwak. Mi permetti una sì, cosa? Prego, prego. Sì, guarda, tu hai menzionato le moltissime imprese che creano questa grande realtà industriale italiana. Queste imprese oggi soffrono per mancanza di credito. Le grandi banche non possono estendere grandi crediti perché sono loro stesse sommerse dal fatto che hanno, come tutti sanno, queste obbligazioni statali in pancia, che hanno perso molto valore, eccetera. C'è una soluzione. La soluzione sarebbe di dare alla Banca Centrale Italiana di emette licenze temporanee illimitate a qualsiasi banca accreditata in un paese membro dell'Organizzazione del Commercio Internazionale Globale, WTO, il Commercio Mondiale, che sono tutti paesi più o meno civili organizzati. Qualsiasi banca di questi paesi può entrare in Italia per 3 anni per concedere prestiti, per fare investimenti, senza diritto di prendere depositi. Quindi non dobbiamo spaventarci, i poveri italiani entrano in questo nuovo ufficio di una nuova banca e perdono i soldi. Non hanno diritto di prendere depositi per 3 anni, solo di fare prestiti. Dopo 3 anni avrebbero la facoltà di accettare depositi nella misura che hanno esteso prestiti. E dopo questo ci sarebbe un processo di normalizzazione. Allora, l'effetto di questo sarebbe di tutti i banchieri lungimiranti, e ce ne sono, cinesi, giapponesi, altri, americani, eccetera, che vogliono entrare in questo ricco e produttivo mercato italiano con i risparmi delle famiglie italiane e portare concorrenza. Mario Monti era il grande fautore della concorrenza. Portare concorrenza sulla banca, io credo che loro guarderebbero oltre la crisi attuale. Certo, perché vedrebbero questo un investimento per entrare in questo paese, dare prestiti all'inizio e mostrare agli italiani che così gli si dà una mano, per poi essere consentito a loro di prendere anche i depositi degli italiani. Una proposta di liberalizzazione a Ted Lutwak. Mi spiace con le telefonate che abbiamo potuto mandare. Appuntamento a lunedì, perché mi tagliano.